Forse tutti conosciamo la parabola del figlio prodigo, ma forse non tutti abbiamo presente una storia raccontata nella Bibbia relativa ad un giovane che, allontanatosi dal padre, in seguito è tornato a casa come fece il figlio della parabola. Mi riferisco ad Absalom, il figlio di Davide, re d'Israele, il quale era fuggito dalla casa paterna perché aveva ucciso suo fratello Amnon. In una certa misura, l'episodio della vita di Absalom e quello del figlio prodigo, oltre a delle divergenze, hanno alcune analogie che chiariscono il problema ricorrente di una improvvisa separazione e altrettanto improvvisa riconciliazione, sia all'interno delle chiese sia nelle amicizie. Consideriamo i fatti. Absalom aveva una sorella di nome Tamar e un fratellastro di nome Amnon. Questi, appassionatosi di Tamar dopo aver architettato un malvagio piano, la violentò. Dopo 2 anni, Absalom, che non aveva dimenticato l'offesa, ordì un tranello invitando Amnon ad un convito che aveva bandito per tutti i figli del re, e qui vi lo uccise. Dopodiché fuggì e si rifugiò per 3 anni a Gesur, dai suoi parenti, finché l'ira di Davide si fosse calmata. In seguito, Ioab, il capo dell'esercito di Davide, con uno stratagemma propose a Davide di far tornare a casa Absalom. Ecco cosa leggiamo in proposito in 2 Samuele 14, 21-33. Allora il re disse a Ioab: «Ecco, farò proprio questo. Va, dunque, e fa tornare il giovane Absalom». Allora Ioab si gettò con la faccia a terra, si prostrò e benedisse il re. Poi Ioab disse: «Oggi il tuo servo riconosce di aver trovato grazia ai tuoi occhi, o re, mio signore, perché il re ha fatto ciò che il suo servo ha chiesto». Così Ioab si levò e andò a Geshur e condusse Absalom a Gerusalemme. Ma il re disse: «Si ritiri in casa sua e non veda la mia faccia». Così Absalom si ritirò in casa sua e non vide la faccia del re. Absalom abitò a Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. Poi Absalom fece chiamare Ioab per mandarlo dal re, ma egli non volle venire da lui. Lo mandò a chiamare una seconda volta, ma non volle venire. Allora Absalom disse ai suoi servi: «Ecco, il campo di Ioab è vicino al mio e vi è l'orzo. Andate ad appiccarvi il fuoco». Così i servi di Absalom appiccarono il fuoco al campo. Allora Ioab si levò, andò a casa di Absalom e gli disse: «Perché i tuoi servi hanno dato fuoco al mio campo?» Absalom rispose a Ioab: «Io ti avevo mandato a dire: vieni qui, affinché possa mandarti dal re a dirgli: perché sono tornato da Geshur? Sarebbe meglio per me se fossi rimasto là. Ora quindi permettimi di vedere la faccia del re, se poi in me vi è qualche iniquità, che mi faccia morire». Ioab allora andò dal re e gli riferì la cosa. Questi fece chiamare Absalom, che venne dal re e si prostrò con la faccia a terra davanti a lui, e il re baciò Absalom. Le analogie tra il figlio prodigo e questo episodio della vita di Absalom sono: A. I figli lasciano la casa del loro padre per motivi iniqui. Il figlio prodigo per concupiscenza. Absalom perché aveva ucciso suo fratello. B. Sia Absalom sia il figlio prodigo non si trovano bene lontano da casa. C. Tutti e due fanno ritorno a casa. D. Entrambi i figli vengono accolti, abbracciati e baciati dai rispettivi padri. Infatti leggiamo nella parabola del figlio prodigo che mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Suo padre gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Luca 15:20. Mentre nel racconto di Absalom leggiamo che Menkenti. Absalom venne dal re e si prostrò con la faccia a terra davanti a lui, e il re baciò Absalom. 2 Samuele 14:33. I figli dunque tornano a casa e, nonostante il loro malvagio comportamento, sono accolti e baciati. Qualcosa di simile accade anche nelle chiese. Vi sono credenti che per vari motivi si separano dalla comunità, come dopo aver commesso un adulterio o perché scandalizzati dal comportamento di alcuni fratelli. A volte perché vengono ingannati dalle ricchezze, oppure per essere caduti nei peccati della maldicenza o della critica. Trascorrono alcuni anni o mesi nell'anonimato, non volendo sapere nulla della Chiesa, alla quale appartengono e, un bel giorno, si presentano alla comunità. Vengono accolti con entusiasmo, con abbracci, baci e, a volte, con lacrime di gioia per il loro ritorno all'ovile. Le preghiere della Chiesa diventano ferventi, si ringrazia il Signore perché finalmente il figlio prodigo è tornato a casa. E così, a volte, alcuni di questi in breve tempo ottengono posizioni determinanti nella Chiesa o posti di responsabilità come conduttori. Tutto questo ha sempre suscitato in me interrogativi che ora ho risolti alla luce dell'episodio della vita di Absalom, e cioè il ripristino della comunione di questi fratelli con la Chiesa è vero? E, giusto, la riconciliazione è simile a quella del figlio prodigo o è simile al ritorno di Absalom, figlio di Davide? Usando un'espressione biblica, per me tra il ritorno del figlio prodigo e quello di Absalom vi è la distanza che intercorre tra il cielo e la terra. Vediamo le divergenze dei due episodi. Una prima divergenza è che il figlio prodigo decise da solo di ritornare alla casa paterna. Infatti egli disse, «Io mi alzerò e andrò da mio padre», mentre la riconciliazione di Absalom con il re fu stimolata da Joab. E questo succede anche in certe chiese. Vi sono dei credenti che, dopo aver abbandonato la comunione con la Chiesa, tornano alla vita comunitaria di loro spontanea volontà, dopo aver riconosciuto i propri errori, mentre altri si riconciliano con la Chiesa perché stimolati da altre persone che hanno un interesse particolare per loro e questo senza che la persona si sia resa conto dei suoi errori e li abbia confessati. L'amicizia è una caratteristica preziosa e da incoraggiare, ma quando questa sconfina o si muove in terreni sbagliati diventa molto pericolosa. Vi sono chiese che si sono divise a causa di un'amicizia non corretta, e cioè quando essa crea dei partiti in seno alla Chiesa. Ricordiamoci che esiste anche un'amicizia diabolica come quella di Erode e Pilato, Luca 23:12. Un vero amico sarà colui che manterrà contatti con chi è separato, senza però condizionare la Chiesa, né venire meno ai giusti principi. L'amicizia di Joab con Absalom, il suo prodigarsi perché tornasse alla casa paterna, terminò in modo drammatico. In seguito Joab dovette uccidere Absalom perché aveva usurpato il trono di Davide. E così è di certe amicizie, senza giuste radici, senza presupposti santi, possono terminare in conflitti fatali e dilaniare irreparabilmente una chiesa. Un'altra divergenza è che il figlio prodigo si era ravveduto e pentito della sua condotta. Infatti egli disse fra sé, «Gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te». In Absalom invece non troviamo traccia di pentimento e di ravvedimento. Egli disse a Joab, «Ora quindi permettimi di vedere la faccia del re, se poi in me vi è qualche iniquità». Che mi faccia morire. Questo dimostra che non sempre chi torna in comunione con la propria Chiesa, dopo averla improvvisamente e senza nessuna spiegazione abbandonata, sia motivato sempre da giusti principi cristiani. L'interesse è sempre una motivazione molto forte, interesse che può risiedere nel voler essere stimato come prima, o perché in fondo si ha bisogno degli altri. Nessuno di noi è in grado di conoscere pienamente i cuori degli altri e anche il nostro, Geremia 17:9, ma il forte e irrefrenabile impulso dell'interesse può indurci anche a desiderare ambiti onorevoli. Per questo, chi desidera l'ufficio di vescovo, anziano presbitero, anche se desidera una cosa buona, 1 Timoteo 3:1, deve aver avuto un cammino irreprensibile. Per irreprensibile non si intende perfezione, ma esente da quei peccati grossolani, come l'adulterio. Una terza divergenza tra il figlio prodigo e Absalom è che il primo chiese perdono, Absalom no. Infatti, mentre il padre baciava il figlio prodigo, questo gli disse, Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Absalom invece, dopo 5 anni, cercò la riconciliazione col padre, dichiarandosi innocente. Quando disse: permettimi di vedere la faccia del re, se poi in me vi è qualche iniquità, che mi faccia morire, la dice lunga. Nella maggioranza dei casi, al credente che si allontana dalla Chiesa per motivi non cristiani, col passare del tempo, accade che la sua coscienza non lo riprenda più e si sente innocente. Infatti la nostra coscienza ha la capacità di assuefarsi al peccato e la nostra ragione riesce anche a dargli un volto lecito. Ma il tempo non cancella il peccato, né tantomeno un'assenza ingiustificata. Anche la Chiesa spesso dimentica, perdona, concilia, soprassiede. Ma, secondo la parola di Dio, la comunione con una Chiesa può essere ripristinata solo dopo una confessione pubblica e il relativo perdono da parte della Chiesa. Una volta che il peccato è confessato e il perdono concesso, la comunione fraterna deve essere offerta immediatamente come prima. Chi esige un periodo di prova non ha compreso di possedere ancora una mentalità cattolica la quale impone una certa penitenza del peccato. Infine, il figlio prodigo, nella sua umiliazione, presa coscienza dei suoi errori, non si sentiva neppure degno di essere trattato come un figlio, ma solo come un servo. Egli dichiarò al padre: non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Absalom, al contrario, voleva diventare re. Infatti, leggiamo, dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio, dei cavalli e 50 uomini che correvano davanti a lui. E, molto importante, l'atteggiamento di colui che desidera la riconciliazione. Se è veramente pentito, non dovrà avere ambizioni di assumere una carica, si comporterà con il prossimo come un servo. Se, dal modo in cui ci comportiamo, dimostriamo l'opinione che abbiamo di noi stessi, così, da come si relazionano i figli di Dio con la Chiesa dopo averla abbandonata, comprendiamo se veramente vi è stato in loro un concreto pentimento. Il comportamento di Absalom, dopo l'iniqua e presunta riconciliazione col padre, ci insegna che le vie di Dio non possono essere imitate per falsificarle o raggirarle senza che se ne portino le conseguenze. Infatti, poiché non vi era stata una vera presa di coscienza dei propri errori, in seguito Absalom cospirò contro Davide, usurpandone il trono. Davide pagò sicuramente a caro prezzo il perdono concesso ad Absalom, senza che questi si fosse pentito, e Absalom, da parte sua, pagò l'iniqua riconciliazione con la morte. Ciò deve indurci a riflettere. Mantenendo questa analogia e trasportandola nella vita comunitaria, riammettendo in comunione con la Chiesa, un fratello che si è allontanato senza che questi si sia pentito e abbia confessato il suo peccato, la comunità fa entrare al suo interno un virus maligno che lavora inesorabilmente nel corpo di Cristo. Paolo avrebbe parlato di lievito, che fa lievitare tutta la pasta. Anche se al presente tutto sembra ripristinato, il fratello rimane sempre una cellula infetta, un corpo estraneo che col passare del tempo produce il suo effetto nefasto. Mi è successo, a volte, che una spina mi si infilasse in un mano senza accorgermene e solo dopo alcuni giorni ho avvertito un lieve dolore e, guardando bene, intorno alla spina c'era del rossore e del pus. Così è della Chiesa, prima o poi il marcio salta fuori a caro prezzo e, spesso, fino ad una divisione all'interno della Chiesa, mentre il fratello, impenitente, porta le conseguenze del suo peccato. Sì, perché il suo peccato lo ritroverà. Numeri 32:23. In effetti, il peccato non deve essere visto solo come una disubbidienza alla volontà di Dio. Esso contrista anche la voce della persona dello Spirito Santo, ferisce lo spirito e il corpo, contamina il servizio di Dio e, alla fine, poiché non vi è nulla che non debba essere reso noto, sarà manifestato. Riconoscere i propri errori non è solo una necessità morale, è un'emergenza vitale. Poiché se un uomo non si rende conto di trovarsi nei guai per colpa del proprio cuore, non uscirà mai dai suoi guai con Dio. In una chiesa entra il figlio prodigo solo quando si adempiono certe procedure. A. Quando vi è un serio pentimento. B. Quando vi è una pubblica confessione di peccato. C. Quando vi è la richiesta di perdono. D. Quando vi è l'abbandono del peccato da parte del fratello. E. Quando il fratello non ha pretese, ma sente nel suo cuore il bisogno di riconquistare la stima. E l'affetto perduto causa i suoi sbagli come un sano comportamento. Senza questi presupposti, il ritorno di un fratello nella Chiesa è il ritorno di un figlio impenitente, ancora pieno di pretese, di orgoglio, e non quello di un figlio prodigo. La Chiesa quindi deve reagire con la disciplina, poiché l'argomento della disciplina è molto delicato e doveroso spendere qualche parola in più. Il terzo millennio è iniziato sotto l'insegna di uno spirito di tolleranza, dove, in ogni situazione, si devono favorire il perdono, la riconciliazione, l'armonia, la tolleranza, quali frutti dell'amore. Per cui, secondo questa filosofia dove non si applicano questi metodi, vi è mancanza di una delle più importanti virtù cristiane, l'amore. Ma il vero amore, quando è necessario, deve esprimersi anche con atteggiamenti apparentemente non caritatevoli. Chi ha detto che l'amore perdono è il solo vero amore? A volte, anche reazioni dure, inflessibili, di distacco, possono produrre una giusta coscienza in chi si è incorso nell'errore. Poiché prendere degli esempi da persone adulte può indurre a sospettare il giusto comportamento, cito un esempio avente come protagonista una bambina. Racconto, citato da un grande evangelista. Un uomo faceva il carrettiere e trasportava birra. In poco tempo, nel consegnare la birra, tra un bicchiere e l'altro, divenne schiavo dell'alcol. Un giorno, mentre era ubriaco fradicio, entrò nell'osteria la sua figlioletta. Si diresse verso suo padre e disse: «Papà, vieni a casa. La mamma ti sta aspettando. È tanto bello a casa, vieni!» L'uomo sentì gli occhi puntati su di lui, vide i visi beffarti dei suoi compagni, sentì frasi di scherno. Preso dall'ira, sgridò sua figlia come una furia. La tirò su per un braccio tanto da farla piangere, la trascinò fino alla porta e la buttò fuori con violenza. Passarono alcuni giorni e la bambina si ammalò gravemente. Il padre andò a trovarla, ma la bambina appena lo vide disse: «Vattene via, papà, vai via!» L'uomo rimase male. Ma la bambina continuava a mandarlo via. Appena cercava di avvicinarsi di un passo, la bambina lo respingeva con le stesse parole. Ad un certo punto si arrese e rimase fermo lontano dalla bambina finché non morì. Dopo quell'esperienza, l'uomo comprese tutto il male che aveva fatto, si pentì, chiese perdono alla moglie, lesse la Bibbia e divenne un figlio di Dio. Non è stato il perdono della figlia a farlo ravvedere, ma la fermezza dell'innocenza che respingeva semplicemente un padre dal comportamento egoista, insensibile. Avere sempre un atteggiamento di accomodamento, di concordia, di perdono incondizionato. Non avere un atteggiamento risoluto e deciso non rivela al prossimo l'odio che il credente deve avere per il peccato, per tutto ciò che disonora Dio. Così deve essere la disciplina. Essa deve essere applicata per dimostrare quanto non si condivida il male con chi lo compie. Quando Paolo ordinò a Timoteo: «Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti affinché anche gli altri abbiano timore». 1 Timoteo 5:20 non era solo una terapia di gruppo, cioè insegnare anche agli altri ciò che non si deve fare, ma anche far comprendere che i cristiani si dissociano da ogni opera che non sia vera, onesta, giusta, pura, amabile e che non abbia una buona fama o virtù. Quando si parla di disciplina occorre sapere che cosa si intende. La parola disciplina significa innanzitutto insegnamento, ammaestramento e in secondo luogo il complesso di norme che regola. Per cui, a volte si intende il divieto di intrattenere pubblici rapporti con la Chiesa. Gli anziani agiranno con la tristezza di chi sta perdendo un fratello, un amico, e non con la malcelata soddisfazione di chi si è finalmente sbarazzato di qualcuno la cui presenza gli procurava un qualche fastidio. Lo scopo della disciplina è sempre quello di recuperare il fratello, di rialzarlo con spirito di mansuetudine. Matteo 7:15. È evidente che quando manca l'obiettivo della riabilitazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari rischia di trasformarsi in una semplice condanna, più o meno definitiva. Una simile azione, spesso, può provocare una divisione nella Chiesa. Gesù è stato per 3 volte rinnegato da Pietro, ma il discepolo infedele non è stato definitivamente allontanato né escluso. Gesù lo ha volutamente cercato con lo scopo di recuperarlo. Pietro si è pentito, ha pianto, si è umiliato. Il suo peccato e il suo pentimento sono talmente conosciuti che, dopo 2000 anni, se ne parla ancora. Per il suo atto di umiltà è stato riabilitato perché le promesse di Dio sono fedeli. L'umiltà precede la gloria, Proverbi 15 e 33, 18 e 12. Si parla troppo poco del pentimento e della confessione di peccato. Come abbiamo preso atto? Troppe relazioni vengono ripristinate senza il riconoscimento del proprio errore e questo induce le relazioni, soprattutto fraterne, ad avere la forma della carità, ma rinnegandone la potenza. Sembra che tutto sia tornato come prima, ma in realtà i ponti sono ancora rotti. Come si vuole evitare l'umiliazione per essere salvati da Gesù Cristo? Così si vuole evitare la confessione di peccato per ristabilire dei rapporti incrinati, se non addirittura rotti. Ma per vivere nel regno di Dio bisogna applicare i principi di Dio. Diversamente, non vi è vita, ma solo sopravvivenza, non vi è comunione fraterna, ma semplice convivenza. Se è vero che non dobbiamo cercare la perfezione gli uni negli altri, diventa un'esigenza però il bisogno, quando è necessario, di applicare una qualche sanzione disciplinare. E questo almeno in 5 casi. 1. Quando si pecca contro un fratello e vi è in subordinazione alla Chiesa, Matteo 18, 15, 20. 2. Chi insegna una dottrina che non si basa sull'insegnamento di Cristo, 1 Corinzi 3, 10, 11. 3. Chi fomenta divisioni, Romani 16 e 17. 4. In caso di immoralità sessuale, 1 Corinzi 5, 1, 13. 5. Per chi persiste in una vita disordinata, 2 Tessalonicesi 3, 7. Non troviamo nella Scrittura nessun comandamento a perdonare in modo incondizionato, cioè quel perdono che accoglie e ripristina una relazione come prima, senza la confessione di peccato. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonagli. Luca 17, 3. Noi dobbiamo essere misericordiosi sempre, cioè avere l'attitudine al perdono, ma non sempre misericordiosi, cioè lasciare correre, perché esiste anche la confessione di peccato e la disciplina. Accogliamo dunque ogni figlio di Dio che ritorna in comunione con la Chiesa, ma dobbiamo anche rispettare certe regole, senza le quali non onoriamo né la parola di Dio né il Dio della parola. L'amore deve sempre muoversi nella verità, senza la quale non siamo degni di appartenere a colui che non lascia il colpevole impunito e senza la quale il nostro modo di procedere è solo pietismo o sentimentalismo. Sentimenti, questi, fatali, non solo nei vari settori della vita, ma anche per una buona armonia di Chiesa. Novembre 1999. Ellero,